Avere notizie sulla contabilità, fu la risposta. Il massaro bofonchiò che era vecchio e poco servigli la memoria. Spiegò che rendeva i conti puntualmente ogni anno ai confratelli, sottolineando così che dipendeva da loro, ed aggiunse di non volere con quest'atto recare pregiudizio all'ospedale e che avrebbe soddisfatto la loro curiosità allorquando le signorie loro reverendissime, in presenza di tutti gli signori consiglieri della venerabile confraternita, richiederanno informazione circa i conti, l'urbario e altre cose. Allora i visitatori dichiararono che il colloquio non pregiudicava nulla e il massaro propose che questa affermazione venisse immediatamente registrata a protocollo negli atti. Rispose poi alle domande. Questo dialogo è tratto non dagli atti visitali, ma da quelli dell'ospedale. Esso diventa ancora più interessante se viene confrontato con la corrispondente relazione visitale. Emerge infatti come talvolta vi fu un uso strumentale della memoria storica dalla parte dell'ordinario e dei rettori delle confraternite. In entrambi i documenti vengono tralasciate delle notizie, in apparenza piccoli particolari, che invece sono di considerevole importanza. Negli atti visitali del dialogo poc'anzi menzionato non viene riportata né la prima parte in cui venne raggiunto il compromesso, né la dichiarazione con la quale si salvaguardavano i diritti della confraternita, ma vengono descritti con cura sia l'esame dei libri contabili portati lì da un rappresentante degli zappatori che le risposte del massaro sulle questioni economiche. Nelle delibere consiliari dell'ospedale relative alla visita invece non si accenna ai libri contabili portati al castello, ma si scrive delle garanzie ricevute. In conclusione, a partire dall'episcopato del Madruzzo, l'ordinario entrò sempre nei luoghi P, visitò l'edificio che ospitava la confraternita, l'ospedale annesso, l'archivio, ed esaminò accuratamente la contabilità più di quanto era riuscito a fare lo stesso Madruzzo. Mai però intervenne nella gestione assistenziale, organizzativa ed economica di questi luoghi, e il controllo amministrativo, per quanto minuzioso, rimaneva saltuario, perché avveniva solo in occasione della visita, che ovviamente non si svolgeva annualiter. Dalla seconda metà del Cinquecento alla fine del Settecento, questi enti subirono in media 3-4 visite. Si trattava quindi di un controllo più formale che sostanziale. Scopo della politica vescovile nel settore assistenziale fu quello di far riconoscere la sua autorità mediante la visita pastorale e di riorganizzare, almeno in una prima fase, l'amministrazione dei luoghi P. L'unico provvedimento che il principe vescovo prese nel settore assistenziale, tra virgolette, fu di ordine sociale, emanò dei proclami per bandire i poveri della città. I dirigenti dei luoghi P, dal canto loro, riconobbero il ruolo dell'ordinario in questi termini, un ruolo più simbolico che effettivo, senza rinunciare quindi alla loro autonomia. Ringraziamenti alla dottoressa Garbellotti per questa sua ricostruzione, che mi pare abbia voluto insistere sia attraverso l'esame della letteratura canonistica sia attraverso il caso dei luoghi P a Trento a partire dal Cinquecento, usando, questo mi pare un altro elemento metodologico molto interessante, non soltanto le viste, ha voluto proprio mettere in luce la difficoltà di definizione di luogo pio e i contrasti intorno al carattere laico o religioso di questo tipo di istituti.